9 in punto, la versione di Oscar. This is the end. E invece no, perché oggi sorpresa, sorpresa, sorpresa, non cominciamo coi Doors. Sorpresa, sorpresa, sorpresa, non cominciamo coi Doors, perché abbiamo un'altra canzone con cui. Questa io la metto fino a che c'è la partita Italia-Germania e continuerò, come ho fatto venerdì, a deridere i miei autorevoli colleghi, a cominciare dal direttore del Sole, stiamo ridendo ovviamente, che si sono augurati che la Germania perdesse con trucchi a tavolino alla Moggi, perché oramai l'Europa politica deve salvare i deboli, quindi è giusto che i tedeschi becchino il rigore, sì, ma fischiato contro anche quando non fanno i falli da rigore. Dico, ragazzi, ma dove vogliamo arrivare a perdere la capoccia noi eurodeboli? A che ente pubblico di previdenza sociale mentale ci vogliamo iscrivere per dire che abbiamo ragione noi, che abbiamo mentito e fatto azzardo morale? Vogliamo dire che, come al solito, il calcio è la metafora della vita e che quindi nel calcio, come sempre avviene in Italia, si vince col trucco? Vabbè, mi pare l'ottima fotografia di un paese che fa, come la politica, peggio della politica. Cioè, per 20 anni la politica ha mentito, siamo col cappello in mano e invece di dire tiriamoci sulle maniche, facciamo nel calcio come abbiamo fatto in politica, tutti a dire noi ce lo meritiamo. Ma che? Ma dove? Ma quando? Nello sport, come nel mercato, come in tutto, è più sano pensare che chi fa sacrifici ed è più bravo vinca. E quindi, perdonatemi, in questi giorni, siccome prevedo di rimanere solo di fronte all'orgia e all'ondata di gente che dirà la Grecia come l'Italia, il riscatto dei deboli, vi beccate per 4 giorni questo bellino. Sentiamo un po'. Naturalmente non perché sia anti-italiano, ma perché c'è un limite, ragazzi, cioè c'è un limite, il limite è quello dei numeri. Avete visto cosa succede? Leggete i giornali stamattina, i greci che fanno i finti tagli dei dipendenti pubblici, E mi dispiace dirlo, ma questo Consiglio europeo che c'è questa fine settimana, faremmo bene ad avvicinarci, senza confondere il tifo, comprensibile, quindi anch'io adesso sto un po' caricando, rispetto ai problemi veri dell'Europa. I problemi veri sono quelli di chi ha fatto azzardo morale, e per quanto vi ripetano che l'Italia non lo ha fatto, non è vero. Per quanto Berlusconi ridica le sue masse giovanili plaudenti che l'unico problema di questa Europa è che manchi una banca centrale come la Fed, basta stampare moneta iosa e il problema è risolto, e dica poi che il nostro debito pubblico non è al 120%, non so disumendolo da dove, queste sono penose chiacchiere politiche non degne di uno che per tanti anni ha lui stipulato gli accordi in sede europea per difendere l'euro, lui ha preso l'impegno per azzerare il deficit, lui per primo dovrebbe sapere che ha fatto più spesa corrente, più pressione fiscale, al contrario di quello che diceva ai suoi elettori, lui per primo dovrebbe sapere che il debito pubblico è cresciuto per via delle menzogne della politica. Io credo che a quel Consiglio europeo o i paesi che hanno adottato questi bei criteri di menzogna politica siano capaci di avvicinarsi cambiando marcia, oppure sarà un po' difficile, scambiando il calcio con la politica, evitare che si perda nel calcio come nella politica. Ecco, questo io non me lo augurerei mai per il mio paese. Però, francamente, sento un'aria, per così dire, cioè sento l'aria dell'ebbrezza, della bizzarria che con il tifo di calcio fa scatenare le adrenaline e dimenticare i fatti veri della politica come dell'economia europea. Vabbè. Può finire come, diciamo, richiamo alla realtà da parte di questa minoritaria Bosca Bianca, quindi via questa fantastico, io non ricordo a tutti naturalmente che la musica è di Haydn, non proprio una marcetta come la nostra, però detto questo andiamo invece al tema serio della trasmissione. Il tema serio della trasmissione si deve al fatto che quando abbiamo letto quello che è successo quando sono state presentate le linee guida per la messa in sicurezza dei capannoni industriali, documento tecnico che era molto atteso da progettisti e aziende, sto parlando naturalmente delle aree colpite dal sisma a cavallo tra Lombardia e Emilia, dal sisma del 20 e poi del 29 di maggio, abbiamo deciso di tornare ad aprire le nostre orecchie, a dare voce a chi si occupa di questa questione. Perché? Perché questo documento, che era molto atteso, è risultato deludente ancora una volta. Stiamo parlando di un documento che, a quanto poi abbiamo appreso, ha ben 155 pagine di bozze. I problemi, da quello che abbiamo capito, ma adesso li vedremo meglio, continuano a essere quelli di tempi, strumenti e asticelle non adeguate rispetto al problema fondamentale, che è quello, ovviamente, come abbiamo detto tante volte, di ripartire con le attività economiche e le produzioni. Questo non significa, a scanso di equivoci, essere insensibile né alle questioni di sicurezza né a quelle di solidità degli immobili strumentali per le imprese, come naturalmente di quelli per fini residenziali. Significa però che questa vicenda del sisma mette in drammatica evidenza l'inadeguatezza delle procedure amministrative di emergenza e ordinarie del nostro paese quando un evento naturale di drammatica forza colpisce aree che questa volta sono aree a straordinaria intensità di impresa. E in quel caso quindi, come sempre, come avviene nel fisco, come avviene in ogni questione, le procedure pubbliche si rivelano incapaci, inadeguate a quella elasticità che invece deve essere il criterio valutativo, capace di discriminare chi deve partire prima a seconda del tipo di settore, a seconda del tipo di catena di fornitura, a seconda anche dell'impatto economico dei dipendenti che ha sul territorio la faccenda, rispetto invece a norme più complesse che devono essere formalisticamente più rigide. Allora, abbiamo qui come ospiti per farci spiegare che cosa funziona e soprattutto però che cosa non funziona e come cambiarlo in questo documento tecnico sulle linee guida per la ricostruzione, e abbiamo con noi Luca Torri, che è il vicepresidente di Federcostruzioni, buongiorno. Buongiorno. E Giovanni Messore, che è il direttore Confindustria Modena, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, Torri, ci spieghi un pochino questo documento a suo giudizio e a giudizio di Federcostruzioni, in che cosa è ancora inadeguato, qual è il vero problema e come e se si può cambiare per quanto conosciamo la pubblica amministrazione? Innanzitutto ringrazio di avermi chiamato, sostanzialmente mi chiamo Torri, non Torri, vorrei sottolineare la problematica del nostro territorio, quindi se mi permette allargherei un momentino il problema al territorio italiano. L'analisi sismica italiana, praticamente diffusa dalla Protezione Civile, parla di 5 milioni di edifici residenziali a rischio, 750.000 non residenziali e ben 22 milioni di abitanti residenti in zone sismiche. Ora, a questo dobbiamo aggiungere il costo praticamente del rischio idrogeologico, no? Dove parliamo di un 10% del territorio, 29.000 chilometri quadrati e l'89% dei comuni interessati. Questo discorso dei terremoti in Italia è costato qualcosa come 160 miliardi di euro dal 94 al 2009. È un costo enorme e questo significa che l'Italia dovrebbe mettere come priorità numero uno quella del ripristino e manutenzione del territorio. Si è avviato anche un piano casa, che io ritengo che sia un'opportunità strepitosa per combinare tutto ciò che è risparmio energetico, ripristino idrogeologico e sismicità. Questo discorso combinato permetterebbe finalmente di portare il livello di protezione del territorio e di sostegno anche sociale a un livello accettabile. In altre parole, la messa in sicurezza del territorio deve essere qualcosa di coordinato che agisca in maniera contemporanea. Cioè, io propongo la contemporaneità di una serie di azioni. Tornando al rischio sismico, dicevo prima che 2.900 comuni, cioè il 38% dei comuni italiani per una superficie di 131.000 km quadrati, è a rischio sismico, zona 1, zona 2A e zona 2B. Questo è un dato impressionante, tutta l'Italia trema e sostanzialmente anche Milano, no? Vogliamo che è in zona poco sismica, ha percepito il timore di quello che può essere un rischio sismico. Ora, esiste un fatto rilevante, non si capisce perché introducendo una patrimoniale, no, non si sia valutato il fatto che intervenendo su edifici e su territori e mettendo a sostanza investendo capitale privato, investendo capitale che permette di valorizzare il patrimonio stesso, non si sia optato per una rivalutazione piatta, parlo del famoso coefficiente 160 rivalutativo delle rendite catastali. È un aspetto che non comprendo, perché chi investe ha il diritto di vedere la valorizzazione del suo patrimonio. Ora, il fatto dell'aver valorizzato il patrimonio deve essere accompagnato da una misura di sostanzialmente di aliquote premianti per chi è intervenuto sul patrimonio stesso, e saranno pochi evidentemente quelli che inizialmente interverranno, ma sono moltissimi quelli che non interverranno, penalizzanti poco quelli che non interverranno per la messa in sicurezza e per il risparmio energetico. Ora, questa premessa che cosa vuol significare? Significa che la sensibilizzazione della popolazione deve essere al rischio sismico, al risparmio energetico e quant'altro, deve essere stimolata, ci deve essere un discorso generale. Passo ora al tema del sisma in Emilia-Romagna. Ora, quali sono i danni? I danni hanno caratterizzato soprattutto l'edilizia non residenziale, che è fortemente colpita, circa 10.000 capannoni sono inagibili e questo discorso ha un consistente impatto sul prodotto interno lordo della nazione, perché è un'area che è avanzata in termini anche di tecnologia e di export. Il patrimonio abitativo viceversa è costituito da 636.000 abitazioni, di cui 235.000 edifici residenziali e 36.000 non residenziali e ben 1.400 scuole. Ora, il 36% del totale degli immobili ha subito dei danni. Quali sono, lei mi chiedeva, le luci e le ombre relative al decreto 52-63C? Innanzitutto la forte centralizzazione delle linee operative per concedere contributi. Questo ricalca un po' i problemi che sono successi in Abruzzo. La mole di procedure da assolvere per gli edifici edificati in classe E e per i centri storici. In Abruzzo questi ultimi sono praticamente abbandonati e non si è fatto nulla. Non ci sono tempi certi procedurali per la quantificazione e l'erogazione dei contributi subordinati, a una definizione di criteri generali di coerenza in base ai quali le regioni coinvolte dovranno definire priorità, modalità e percentuali di interventi. Non è previsto nessun termine per l'emanazione del provvedimento di cui sopra, e mentre gli edifici con danni minori potrebbero iniziare subito i lavori in base a un progetto di un tecnico abilitato al ripristino dell'agibilità nelle more della verifica definitiva. Deve essere definita la modalità di copertura delle spese, che crea delle incertezze nel privato, perché non sa quando recupererà il suo investimento. Le modalità di ripristino dell'agibilità sono un altro problema. È consentita l'esecuzione dei lavori edili di ripristino sulla base della comunicazione ai comuni dell'avvio degli stessi, e questo è in deroga ai titoli abitativi e autorizzativi e di autorizzazione paesaggistica e sismica. Non capisco molto la paesaggistica in un discorso di ripristino e riedificazione. Comunque, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori dovrà essere presentata al comune la documentazione per l'autorizzazione paesaggistica e per il titolo abitativo. La perizia asseverata, tuttavia, si riferisce all'AEDES, che non stabilisce il livello sismico. E qui veniamo al punto della sua domanda. Sarebbe meglio riferirsi alle norme tecniche delle costruzioni, l'NTC 2008, e alla procedura per la valutazione del rischio sismico elaborata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ora, un recente convegno, poi il mio altro interlocutore dovrebbe chiarire meglio cosa è successo, praticamente ha portato alla contestazione da parte di progettisti e da parte di operatori di due cose. Innanzitutto la tempistica per la messa in sicurezza definitiva, cioè 18 mesi che si ritiene siano troppo corti, perché si può fare un ripristino mettendo in sicurezza le persone, ma sicuramente non in sicurezza totale dell'edificio. E il secondo? E il riferimento è il livello di sicurezza pari al 60% di quello di un edificio nuovo, considerato troppo elevato, no? Meglio abbattere questo punto. Allora, la fermo, Lucadori, la ringrazio molto. Mi dispiace per la vocale dovuta all'errore qua in redazione, e quindi mi scuso molto con lei. Messori, allora, questo tempo, il tempo di questa seconda fase della messa in sicurezza, 18 mesi più 6 di progettazione e il coefficiente al 60% per la messa in sicurezza, il che significherebbe praticamente rifar tutto nei capannoni. Sono davvero questi i due punti che problemi comportano, a giudizio delle imprese? E più complessivamente, perché questo documento ancora non va bene e non ci siamo? Dunque, guardi, dottor Giannino, noi stiamo ultimando la prima fase, che era quella urgente del collegamento tra i vari elementi strutturali verticali e orizzontali, la presenza di elementi di tamponatura non adeguatamente ancorati e le scaffalature. Questo serviva per il documento provvisorio. Ok, lo stiamo facendo, è un mese che lavoriamo, se lei passa per il cratere vedrà centinaia di gru, di mezzi, sembra di essere a Shanghai quando fanno vedere i documentari sullo sviluppo edilizio della Cina. Punto numero due, su cui noi abbiamo come Confindustria Emilia Romagna, Modena, Ferrara presentato un emendamento in un'audizione parlamentare che abbiamo avuto l'altro giorno, cioè mettere in 18 mesi, raggiungere il livello di sicurezza pari al 60% della sicurezza richiesta a un edificio nuovo, significa, secondo molti esperti, professori universitari che abbiamo consultato e che lavorano anche per noi, abbattere significa che è più conveniente abbattere e costruire il nuovo. Allora, qui è un problema economico, perché se non ci saranno aiuti particolari in 18 mesi, significa che noi stimiamo un 25-30% di imprese che non potranno fare questo adeguatamente e quindi ripartire. Quindi il problema della sicurezza rimane fondamentale, bisogna però che la collettività sappia che se sono richiesti questi limiti molti non ce la possono fare. Allora, è un problema di scelte. È un problema di scelte, certo, è un problema di scelte quello di aggiungere ai danni di attività ancora ferme e bloccate quello di adottare ex post tutto il rigore necessario, gonfiando i muscoli e chiudendo, facendo chiudere in maniera aggiuntiva qualcun altro, nel frattempo non avendo ancora chiarito i criteri naturalmente per gli incentivi e il loro ammontare. Come l'amministrazione pubblica riesce ovviamente prima ad additare le imprese come responsabili all'intera opinione pubblica e con le procure che scattano, ovviamente, naturalmente poi si arriva a spiegare dopo che in realtà i criteri non erano affatto cogenti, anche al variare delle aree sismiche, che questo è avvenuto solo dopo il in Abruzzo, dopo il sisma in Abruzzo, però naturalmente lì per lì l'amministrazione pubblica punta il dito contro i cattivi delle imprese private. Dopodiché naturalmente sui criteri e la velocità degli aiuti incentivi pubblici per ripartire nebbia, dopodiché tutta la rigidità del caso per la messa in sicurezza nei tempi più rapidi possibili, così si aggiungeranno a imprese chiuse per il trionfo di chi naturalmente gonfia i muscoli dicendo che lo Stato ha sempre ragione, certo, ad aggravare persino i drammi naturali. Comunque, questa storia dell'avvicinarsi all'Euro Consiglio del 28 e 29 con il calcio contribuisce, secondo me, a confondere molto le idee. Oggi sui giornali è tutto un grande allascamento in nome del calcio, e poi effettivamente ci sono problemi di politica internazionale, mediterraneo, dalla tensione tra Siria e Turchia e la vittoria in Egitto del candidato dei Fratelli Musulmani. Detto questo, la Reuters ha anticipato ieri nella nottata una prima bozza del documento che andrà in discussione al Consiglio europeo del 28 e 29, che come sapete è decisivo. Se quella è la bozza, è un Consiglio europeo dal quale non attendersi svolte veramente radicali. E in quella bozza sono identificate quattro aree per l'ipotetico accordo del documento finale del Consiglio europeo, cioè l'unione bancaria, l'unione fiscale, l'unione economica e l'unione politica. E l'unione bancaria è definita come la vera priorità da raggiungere e completare entro un anno, senza, dice la bozza, prevedere modifiche ai trattati per questo punto dell'unione bancaria. Trovate invece su diversi quotidiani stamattina riferimento e particolari su una ipotesi di studio fatto dal Ministero delle Finanze della Germania, in cui si configura, in caso di euro rottura, conseguenze abbastanza catastrofiche anche per la Germania, cioè 10 punti di PIL, in altre parole più di quanto costerebbe alla Germania anche l'ipotesi di più caro pacchetto di solidarietà cooperativa con noi eurodeboli mentitori. E Wolfgang Schäuble, scusatemi, ieri ha detto che ci potrebbe essere un referendum in Germania sull'unione politica entro 5 anni. Mi ha molto colpito questa uscita su Der Spiegel del ministro delle finanze tedesco, perché è evidente che inizia a stridere il limite costituzionale posto dalla Germania all'atto del recepimento del trattato europeo, al punto tale da doverlo superare con un nuovo appello alle urne tedesche, alla volontà popolare. Il fatto che Schäuble, che sia uno molto prudente, accenni sia pure su un orizzonte di anni di fronte alla necessità di un nuovo referendum in Germania per ulteriore integrazione, per consentire alla politica tedesca di procedere verso l'Unione Europea politica, ci dice che c'è un problema molto forte, secondo me. Invece al Süddeutsche Zeitung Jens Widmann, quindi Bundesbank, ha ribadito ancora una volta il suo no al piano di Mario Monti, volto a consentire all'ESM di cominciare l'acquisto di titoli di debito pubblico, soprattutto di quei paesi euro deboli più virtuosi, cioè come noi, in nome del fatto che sarebbe un finanziamento, sarebbe una monetarizzazione del finanziamento del debito pubblico, quindi proibito dal trattato. Nel frattempo un sondaggio mostra che il 39% dei tedeschi vorrebbero abbandonare l'euro. Questo è un sondaggio rilanciato da Bloomberg ed è fatto su un campione a cavallo di quattro paesi: Germania, Francia, Spagna e Italia, quindi sono 1000 persone come sondaggio, come campione a sondaggio di ogni paese. Il 39% dei tedeschi vorrebbero uscire dall'euro. In questo sondaggio gli italiani che dicono uscire dall'euro sono solo il 28%, il 26% dei francesi, il 24% degli spagnoli. Alla domanda invece in questo sondaggio in quattro paesi se i greci dovessero essere posti in condizione di uscire dall'euro, la maggioranza dei francesi in questo campione, il 65% dice sì fuori dall'euro, il 78% dei tedeschi dice sì greci fuori dall'euro, il 49% degli italiani dice sì ai greci fuori dall'euro, quindi non è la maggioranza in Italia. Ed è appena appena la maggioranza in Spagna, il 51%. Avete visto nel fine settimana qual è l'irresponsabilità dominante nel dibattito politico italiano. Si torna a pensare a elezioni a ottobre, si torna a pensare che tutto sia meglio così. In altre parole, ma sì, se lo spread risale è colpa di Monti. Monti ha molte colpe, lo critico anch'io. La politica che fa la gara irresponsabile con ministri del governo Berlusconi, che come se non avessero governato dipingono una condizione del paese come se loro fossero i liberali liberisti che adesso chiedono meno spese e meno tasse, avendo fatto il contrario e mentito impunemente per tanti anni, descrivono l'attrezzatura intellettuale di molta politica italiana. A mio giudizio, il compito di una buona informazione sarà quello di ricordare che nel nostro paese noi, se non c'è un Consiglio europeo di straordinaria forza, può essere che mi sbagli, ma io credo che i 3 mesi successivi vedranno l'Italia nelle condizioni di una ristrutturazione straordinaria del suo debito pubblico. Un redemption fund, sì, ci sono strumenti che ci possono essere o imposti o devono essere contrattati unilateralmente, per i quali con il nostro debito pubblico, se continueremo ad andare verso quota 500 in caso di un Consiglio europeo non risolutivo, cioè senza federalizzazione di quote del debito pubblico, come dal documento rilanciato stanotte sembrerebbe che questo Consiglio europeo è, forse una classe politica e classi dirigenti italiane responsabili devono iniziare a dire agli italiani che con questo debito pubblico, che non è vero che non è un problema, è un enorme problema. Con questa spesa corrente elevatissima, con questa rapina fiscale così elevata, bisogna cambiare drasticamente marcia e bisognerà dare garanzie internazionali in questo senso, perché altrimenti, ripeto, dovremo destinare in maniera contrattata a livello internazionale una quota crescente delle nostre entrate fiscali a garantire il finanziamento e il rientro del debito pubblico. Vediamo se mi sbaglio nei prossimi mesi. Come al solito, io vorrei sbagliarmi, ma fino a questo momento, datemene atto, non sono le palle raccontatevi dai politici che vi hanno raccontato la verità vera su che cosa bisogna fare quando si raccontano storie per tanti anni e quando c'è un problema, che in questo caso non sono le bolle immobiliari spagnole, non sono i troppi dipendenti pubblici e zero manifattura dei greci, non sono la bilancia dei pagamenti negativo a doppia cifra del Portogallo, ma sono uno stato depredatore che nessuno è riuscito a fermare. Adesso purtroppo si dice che anche l'abbattimento del debito con il patrimonio pubblico, che da sempre da questi microfoni vi indichiamo, non si può più fare perché in qualche misura è già stato proceduralizzato la settimana scorsa e quindi ci vorranno i suoi tempi, basta dire questa roba. Ho letto che Giuliano Amato su Sole 24 Ore non è più per la patrimoniale nelle tasche degli italiani, ma è per un sistema non più forzoso ma comunque volontario, comunque per fare appello al patrimonio degli italiani. Su questo credo che i prossimi mesi vedranno l'Italia rinfocata nel suo dibattito, se bisogna ancora picchiare nelle tasche gli italiani oppure no. Allora, questa è la mia diagnosi ed è il perché poi mi preoccupo che il calcio vi fa, per così dire, vi faccia un po' troppo distrarre in nome della riduzione di una politica così complessa e di un'Europa così debole e delicata a vicende calcistiche. Il calcio è, come tutti gli sport popolarissimi, non deve servire come droga dei popoli, per così dire, e io mi auguro che i giornalisti per primi la piantino con questa bella gara a pettinare gli italiani nel verso in cui vogliono essere pettinati, cioè quello in cui i politici li hanno pettinati. Dire agli italiani: siamo i più bravi del mondo, noi siamo i più bravi del mondo, malgrado che la politica sia una delle peggiori del mondo, e purtroppo, siccome il sistema di incentivi e disincentivi pubblici ottiene l'effetto dominante, ecco perché siamo in basso nelle graduatorie. È meglio ricordarcelo che siamo in basso e non sperare che vengano dei rigori a nostro vantaggio da arbitri comprati o antitedeschi, perché questa sarebbe la cosa peggiore, di confondere le idee a tutti. Allora, abbiamo ospite in questa seconda parte della trasmissione, dopo questa bella premessa su ciò che davvero è il clou della settimana, cioè il Consiglio europeo, un nostro ascoltatore che ci ha scritto ascoltandoci tramite podcast da Bandung, cioè dall'Indonesia, ed è un imprenditore originario di Pietra Ligure, una specie di emigrante italiano in giro per il mondo, per così dire, che in coerenza alla trasmissione che abbiamo fatto la scorsa settimana sul come e sul perché bisogna essere anche pronti a considerare l'idea, pur difendere le ragioni dell'impresa italiana, di andarsene nei paesi che sono meno ostili, meno demenzialmente e criminalmente ostili alle ragioni dell'impresa e del lavoro, come invece l'Italia, che vi dicono non avere colpa, e invece ce l'ha, perché il lavoro e impresa li uccide. Occhio, tra l'altro, occhio, gli amici della CGIA di Mestre hanno aggiornato le statistiche sulla natalità e mortalità di impresa, e sono statistiche che purtroppo non possono che confermare che di male stiamo andando in peggio, perché nei primi tre mesi di quest'anno sono morte 1626 imprese al giorno, sono cessate 146.000 imprese. Però il problema non è tanto la mortalità, e il problema di fare il saldo tra imprese che chiudono e imprese che nascono, e nel primo trimestre del 2012 il saldo è naturalmente peggiorato rispetto al 2011, sono 26.100 imprese come differenze di saldo. Il problema più preoccupante è che le nuove imprese sono spessissimo microimprese, partite IVA, disoccupati partite IVA, mentre a chiudere sono imprese con decine e decine di dipendenti. Questo è il bilancio dell'ostilità che la Repubblica Italiana riserva al lavoro e impresa. E il nostro ascoltatore ci ha scritto dall'Indonesia, sentendo le trasmissioni in cui dicevamo, parlando di Zucchi, della sua iniziativa che c'è stata sabato scorso nel Piacentino con il passaporto per la vita per sopravvivere negli altri paesi, ci ha scritto dicendo è un po' quello che mi ha spinto a venire qua in Indonesia, da italiano all'estero che ama l'Italia. E devo dire che in tanti anni non è che io abbia visto questo sistema capace di aiutarmi davvero. Allora diamo la parola al nostro ascoltatore, che si chiama Daniel Vigore. Purtroppo c'è anche una notizia battuta dalle agenzie: in Afghanistan c'è stata un'esplosione in un campo addestrativo della polizia afghana ad Adraskan, ed è morto un carabiniere italiano e altri due sono rimasti feriti in seguito a questa esplosione. È stata battuta pochissimi minuti fa, naturalmente i nostri colleghi del Giornale Radio vi aggiorneranno sul bilancio. Morto un carabiniere, due feriti, non, i primi lanci non ne riferiscono le condizioni. I carabinieri collaborano lì nel programma internazionale di addestramento delle forze di polizia e sicurezza afghane. Allora, abbiamo con noi collegato il nostro ascoltatore, che si chiama Daniel Vigone, è originario di Pietra Ligure, sta in Indonesia da quanti anni? Buongiorno signor dottor Giannino, sto in Indonesia da circa ormai 10 anni, tornando sempre abbastanza frequentemente in Italia, quindi sono abbastanza aggiornato sulla situazione. E la che storia... tipo di attività imprenditoriale sì. avete in famiglia? Esatto, la nostra è un'attività a livello familiare, come ce ne sono tantissime in Italia e in giro per il mondo. La storia parte un po' più da lontano rispetto alle ultime notizie del signor Zucchi, di aziende che vogliono trasferirsi per necessità. La nostra parte più che altro per una ricerca di prodotto e l'applicazione di tecniche antiche. Noi facciamo principalmente tappeti, tessuti per la casa, per l'abbigliamento per la casa, e parte da questa ricerca sulle tecniche antiche applicata al design italiano, al nostro gusto, ai nostri colori e ai nostri materiali. Quindi diciamo che voi in un'attività che è tessile avete identificato ciò che agli occhi di molti del tessile italiano è proprio l'area da cui proviene il peggior nemico, cioè il sud-est asiatico. Sì, diciamo che noi applichiamo delle tecniche che in Italia non sono assolutamente applicabili, anche perché la cultura, soprattutto in Indonesia, legata al tessile manuale è completamente diversa dalla cultura tessile italiana. Quindi abbiamo cercato di trovare la necessità di un prodotto diverso da quello che venisse fosse offerto già nel mercato italiano, e comunque il nostro mercato principale è sempre stato l'Italia, per quello che è stata la nostra produzione. Oggi, sentendo il signor Zucchi che parla della necessità delle aziende di portarsi all'estero per produrre, mi viene da pensare che abbiamo visto bene, purtroppo, perché in Italia non ci sono più le condizioni né per lavorare né per vivere, perché se uno non lavora fatica anche a vivere, mentre all'estero stati che noi non abbiamo neanche mai considerato particolarmente aiutano soprattutto la popolazione locale, a partire dai contadini, da persone che non hanno niente da dare in garanzia, con dei finanziamenti a fondo perso oppure che vengono restituiti con lassi di tempo molto ampi e che permettono all'economia di girare. E oggi l'Indonesia è dietro solo alla Cina e ha una crescita dell'8-9% all'anno, che è una cosa abbastanza importante, visto che 14 anni fa c'è stata la caduta del regime di Soeharto, che ha portato il paese a una svalutazione incredibile, ed erano veramente con i piedi a bagno, erano in ginocchio. E mi faccia capire, in tutti questi anni, gli ultimi 10 anni in cui siete lì, il sistema Italia, nella sua componente pubblica di proiezione delle imprese italiane all'estero, del sostegno e delle attività di assicurazione e controassicurazione di chi fa attività di impresa fuori, eccetera eccetera, vi ha dato una mano, si è manifestato, esiste, non esiste, in termini comparati rispetto ai vostri concorrenti che stanno lì provenendo da paesi europei, loro come voi se la vedono da soli o hanno dietro un apparato pubblico, insomma il bilancio di quello che la grande Repubblica, lo Stato, che piace tanto a quelli che non sono d'accordo con me, che anche oggi mi stanno picchiando, ma guarda, tra poco c'è, mettono un bello statalista e siete tutti contenti qua, che cacchio di radio d'impresa, ma lei che Stato ha visto stando in Indonesia? Gli ha dato una mano lo Stato italiano? Assolutamente no, cioè penso che dai piccoli imprenditori, ma anche ai lavoratori, a quelli della mia generazione, ma anche non faccio distinzione di età, chi ha bisogno di essere indipendente all'estero deve farlo sulle proprie forze, al di là di alcune iniziative che gli italiani stessi si radunano in associazioni o cose di questo genere, ma per il resto lo Stato è inesistente, come le istituzioni bancarie per quanto riguarda gli investimenti all'estero, non so per le grandi società, sicuramente per le multinazionali è diverso, ma per le piccole imprese familiari è inesistente, anzi hanno il terrore probabilmente di finanziare imprese all'estero, piccole imprese, anche se noi abbiamo sempre dato grandi garanzie sul suolo italiano, cercando di spiegare in maniera assolutamente trasparente quello che veniva fatto qua in Indonesia. Ovviamente la produzione è a disposizione di tutti per essere visitata e vista in ogni suo aspetto, ma non c'è stata mai risposta. E l'apparato, ecco, l'apparato diciamo delle rappresentanze estere italiane, cioè di solito i signori della Farnesina dicono che loro sono iperspecializzati oramai, che sono diventate le ambasciate italiane, sono delle vere e proprie rappresentanze d'impresa. Nella sua esperienza, adesso non la voglio creare difficoltà ovviamente nel paese in cui opera. Non vorrei parlare male delle ambasciate, perché al netto naturalmente dell'ambasciata in Indonesia, che sarà il meglio, ma diciamo come sistema rispetto a quello che vede sui suoi concorrenti di altri paesi europei? Pronto? Eccomi, dicevo, se dovesse dire quello che le imprese di altri paesi europei ricevono dalle loro ambasciate, senza entrare troppo, non la voglio rovinare per così dire, però... Sicuramente ricevono degli incentivi dalle camere di commercio e hanno dei programmi in cui ricevono finanziamenti anche a fondo perduto, parlo anche di aziende tedesche, aziende poi uscendo dall'Europa, aziende coreane e giapponesi, non ne parliamo, hanno assolutamente tutte le agevolazioni e i loro governi si muovono proprio per cercare accordi tra governi per far lavorare entrambi gli stati. Noi in Italia siamo lasciati a noi stessi, cioè le iniziative, noi possiamo solo cercare dei partner locali, cercarli per noi, cioè tra di noi e senza l'aiuto assoluto di nessuna istituzione italiana e cercare di andare avanti. Ma rientrare in Italia per voi è stata una tentazione ogni tanto, una tentazione da risolvere ascoltando il dibattito italiano dicendo ma fossimo matti, stiamo meglio ricentrati dove siamo, oppure è una possibilità? La possibilità ci sarebbe sicuramente se ci fossero le condizioni, ma ad oggi non vedo alcuna condizione per rientrare in Italia. Le faccio un esempio della mia famiglia: mia mamma ha un'osteria a Pietraligure da 20 anni, che comunque il lavoro va abbastanza bene, che gestisce con mia sorella Stefania. Io cercherei di portarle qua il prima possibile, cioè nonostante il lavoro ci sia, eccetera, però non... Qua gli garantirei una vita, un tenore di vita migliore, senza avere il terrore di ricevere sempre lettere da Equitalia oppure pagamenti saltati di un giorno, arrivano multe che poi si moltiplicano. Cioè è una cosa che in Italia ormai si è creato un regime di terrore su queste cose qua. E si sente un traditore per questo? No, assolutamente no, io mi sento italiano e mi sento di portare l'Italia ovunque vado e la difendo a spada tratta ovunque io vada. Cioè, poi un discorso è essere in Italia e vivere i problemi dell'Italia quotidianamente, da fuori sono ancora più ingigantiti perché noi quotidianamente parliamo con persone di altre nazionalità che... Non risparmiano critiche sul nostro governo. E hanno ragione, mi permetta, Dana Vigone, io la ringrazio, e hanno ragione, ricordo a tutti quelli che ci ascoltano di potersi procurare nel formato ebook, oltre che in edicola, in libreria, il libro Sudditi, per riflettere su che cosa lo Stato ci fa a noi invece di quello che noi possiamo fare per lui, e il secondo, che è, se va bene andrà peggio, scenari dell'eurocrisi, anche questo lo trovate da Amazon.it e su tutte le piattaforme per gli ebooks. Appuntamento a domani e grazie.